voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Giovanni Orsi Mazzucchelli, materie plastiche, occhiali e colori, di Alessandra Scaglioni. La storia d'impresa che vi raccontiamo oggi è quella della Mazzucchelli, azienda lombarda nata nel 1849 e che oggi è leader mondiale nella produzione del materiale utilizzato per le montature degli occhiali. Alla guida dell'azienda c'è Giovanni Orsi Mazzucchelli, che fa parte della quinta generazione della famiglia, ma l'attività creata da Santino Mazzucchelli era nata con caratteristiche diverse. Nasce oltre 160 anni fa a Venegono Superiore, produce pettine e bottoni lavorando l'osso e il corno. Questo nel 1849. L'arrivo delle materie plastiche condizionerà la crescita e l'attività dell'azienda, prima con la celluloide e poi con lo sviluppo di un'ampia gamma di prodotti. Arriva dopo qualche paio di decenni la prima materia plastica che viene inventata negli Stati Uniti è la celluloide. La celluloide è un materiale naturale, cotone, alcol e canfora, assolutamente tutti prodotti naturali, e permette la malleabilità del materiale, quindi la possibilità di riprodurre tutti gli effetti e inizialmente, proprio con una vocazione ecologica, andare a sostituire l'avorio nelle palle da biliardi, la tartaruga e il corno, quindi difendere la natura. Poi la celluloide lascia il posto all'acetato di cellulosa e la Mazzucchelli rinnova i suoi processi di produzione. Nei primi anni del 1920, vista l'infiammabilità del materiale, viene riformulato questo cotone, quindi diventa acetato di cellulosa. Acetato di cellulosa mantiene le caratteristiche, salvo che non è più infiammabile, perché si è visto che nel periodo della celluloide utilizzata per un'infinità di applicazioni, perché andiamo dalle lampade, ai tavolini, le bambole, palline di ping pong di qualità sono in celluloide, ma man mano nascono e si specializzano le materie plastiche in maniera più tecnica, rispondente in maniera più specifica al tipo di impiego. E nel primo dopoguerra è proprio la lavorazione della plastica a determinare il passaggio tra azienda manifatturiera e produzione industriale, con un viaggio negli Stati Uniti e un accordo importante. Abbiamo in mezzo anche un passaggio generazionale. Infatti, Santino, l'iniziatore, passa al figlio Pompeo, che prosegue l'attività manifatturiera e poi delle nuove materie plastiche. Il figlio di Pompeo, Silvio, coglie la necessità delle nuove materie plastiche e va in America e riesce a fare una joint venture con la Dupont de Nemours per l'avvio della fabbricazione della celluloide. Questa joint venture, a cavallo delle due guerre, permette di impratichirci dei processi chimici necessari alla produzione, quindi partendo dal cotone arrivare fino alla materia plastica. Nel secondo dopoguerra la plastica ha innumerevoli utilizzi e la Mazzucchelli ha un periodo di grande sviluppo. Le produzioni sono molteplici: pettini, occhiali, penne, pellicole fotografiche, materiali per l'edilizia, palline da ping pong e sci. Certamente negli anni 60 raggiungiamo la massima dimensione italiana, 3.000 dipendenti, una metà nella realizzazione di articoli finiti e l'altra metà nella produzione delle materie plastiche, che a questo punto non sono chiaramente solo l'acetato di cellulosa, ma anche trattiamo l'ABS, polistirolo, il vinile per le carte di credito, imballaggio farmaceutico. Successivamente vedremo invece la ricerca di specializzazioni. La specializzazione è quella legata alla produzione di acetato di cellulosa, che per le sue caratteristiche è particolarmente adatto alla creazione di montature per occhiali di tutti i generi. L'acetato di cellulosa, a sorpresa di tutti i portatori di occhiali, è fatto di cellulosa, cotone o pasta di legno. Quindi plastificato, è un materiale che è malleabile fino all'ultimo stadio in cui viene presentato alla clientela. Componendolo e ricomponendolo abbiamo una capacità infinita di riproduzione di effetti. Esemplificando, si può immaginare d'avere di fare una torta con inserendo nella torta delle uvette piuttosto degli effetti di mela. Quando poi andremo a tagliarla e ricomporla mettendola in verticale queste fette, vedremo che il disegno delle mele piuttosto che delle uvette sarà completamente diverso dall'originale. Moltiplicando all'infinito questa composizione e ricomposizione della torta otteniamo gli effetti che oggi potete ritrovare sul naso a tutti i portatori d'occhiali. Oltre a costruirsi una specializzazione, la Mazzucchelli ha seguito la strada delle alleanze strategiche per ampliare le sue produzioni anche all'estero. E questo rappresenta uno dei suoi punti di forza. Il punto di forza è stato la passione sul campo e quindi seguire la nostra clientela, la continuità della famiglia e la capacità di aprirsi e di cercare costantemente delle alleanze per guadagnare dei punti sul mercato piuttosto che rafforzare l'azienda. Oggi il 70% della produzione è proprio quella di acetato di cellulosa per montature di occhiali. L'azienda è anche a capo di un gruppo di industrie legate al mercato dell'occhialeria, con forniture di lastre di qualità ottica, lenti da sole e componentistica metallica per occhiali. Ha un fatturato di 160 milioni di euro e un totale di 2.100 dipendenti, 600 in Europa e 1.500 in Cina, dove c'è una sede di produzione. La nostra esperienza all'estero, focalizzandoci sull'acetato di cellulosa e quindi nel settore principalmente dell'occhialeria, noi cominciamo la distribuzione in Hong Kong in particolare già negli anni 70. Eravamo già presenti chiaramente in Germania, Francia, Inghilterra, Stati Uniti, ma questa presenza commerciale in Hong Kong pone le basi per l'apertura dei primi stabilimenti nel 94. Quindi nel 94 iniziamo una prima joint venture con appunto un imprenditore cinese per poi continuarla da soli ampliandoci con altri partner, questo principalmente mirato al servizio della clientela locale. Non siamo andati in Cina per reimportare un prodotto più economico, siamo andati per servire la nostra clientela che oltre ad essere presente in Europa era presente anche in Cina. L'organizzazione della produzione prevede una testa italiana. In Italia rimane il nostro centro di sviluppo prodotto in termini di cromie per la clientela, ma anche in termini tecnologici e chimici. È qui che mettiamo a punto i processi che poi verranno esportati nei vari insediamenti produttivi. E anche se c'è molto lavoro tecnico e specializzato, la ricerca e il lavoro creativo hanno un peso importante, perché il sistema di produzione degli occhiali è molto legato al sistema moda. Noi proponiamo delle collezioni di sviluppi colori grazie all'associazione al sistema Mod Italia, che è il sistema del tessile, dove ci permette di cogliere quelle che saranno, con 2 anni d'anticipo, le tendenze delle trame dei tessuti e dei colori. Qui proprio fondamentale il discorso della trama per capire la profondità che noi dovremmo dare al colore nelle nostre collezioni. Questo ci porta ad anticipare desideri, le tendenze del mercato e anche a poter interloquire con gli stilisti della nostra clientela per l'elaborazione di tutte le personalizzazioni che ci richiedono. Della filiera interna fa parte anche un centro di ricerca. Il nostro centro è appunto riconosciuto per questo suo apporto nel settore della moda e siamo stati invitati a una esposizione sul percorso della moda a Parigi, quindi in mezzo a tutti i francesi ci siamo trovati a completare con il nostro prodotto, l'acetato di cellulosa, quindi gli occhiali, tutte le cromie, a completare quella spiegazione del percorso della moda nell'abbigliamento, nell'accessoristica. Oltre al mercato dell'occhialeria, il gruppo ha mantenuto alcune altre produzioni specializzate. Dunque, un settore particolare che curiamo, per esempio, quello delle elettrovalvole per lavatrici, quindi con clienti Zanussi, Whirlpool, Bosch. Questo è un settore che avevamo sviluppato in Italia, oggi trasferito completamente in Polonia, essendo il polo degli elettrodomestici trasferito in Polonia, dove facciamo 28 milioni di fatturato. Un altro settore particolare quello nel campo sportivo delle maschere da sci. Le lenti delle maschere da sci sono fatte in acetato di cellulosa e riusciamo a dare dei trattamenti che rendono assolutamente indispensabile il nostro materiale, sono tutti trattamenti anti-appannaggio, anti-fog. La crisi pare superata e cresce la domanda che arriva dalla Cina. Per la Mazzucchelli, l'Oriente sta diventando il mercato di maggior rilievo. Noi la crisi 2008-2009 è stata molto pesante perché la catena di distribuzione dell'occhialeria è estremamente integrata e quindi c'è stato un blocco immediato e estremamente violento. Ma altrettanto oggi è già ripartito e in più si aggiunge l'ampliamento dell'Estremo Oriente come attività assorbente questo mercato. Noi vediamo un importante sviluppo nel settore, sta prendendo un passo decisamente importante, tanto che oggi la nostra produzione in termini quantitativi è maggiore oramai in Cina che non in Italia. La prossima generazione, la sesta, sarà rappresentata dai 5 cugini, figli di Giorgio Orsi e della sorella, e si stanno già ponendo le basi per il modello di sviluppo dei prossimi anni. Oggi la sfida che abbiamo davanti è appunto la preparazione della sesta generazione, 4 cugini dai 30 ai 27, 2 miei e 2 di mia sorella. Avremo poi una quinta che arriverà fra poco, è quasi ancora un anno di università. I cugini fortunatamente sono interessati a settori differenti, quindi una facile integrazione. La passione per l'azienda credo è testimoniata per ora da tutti, quindi porta a immaginare la continuazione in questo campo rimanendo come unici proprietari. Certamente in Cina abbiamo già delle partecipazioni e abbiamo creato delle joint venture, quindi tutte queste realtà e questi sviluppi cinesi porteranno a sviluppare queste collaborazioni. Ecco che avremo una situazione alquanto mista e sempre aperta e dinamica. Questo darà ampio spazio alla nuova generazione di rigenerare degli equilibri e delle strutture societarie nuove. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.